Benvenuti a Canne e Camicia, ci siamo anche oggi, oggi puntatona su un personaggio incredibile e spero che i volumi vadano bene, spero di entrare perché non mi sono messo le cuffie quindi non sento una ceppa. E intanto allora mando la siglettina. Questa musichina indiana, io entro per parlare di un personaggio epico nel mondo delle truffe, colui che sfruttando uno schema Ponzi, il più banale degli schemi, trafugò 60 miliardi di dollari a Wall Street. Quest'uomo certo non era un compagno, certo non ci diede una lira. Non era certo nostro amico. Si potrebbe definire anche un grandissimo pezzo di merda. Però mise all'apparenza, in evidenza, quello che era una falla, un problema di tutto il sistema capitalista. Quest'uomo si chiama Bernard Madoff, o Bernie per gli amici. Thank you. soltanto dall'India, direttamente dall'India, un po' di musica, scherzo, da Radio Blackout, su ovviamente sostieniradioblackout.org, Super Compila, bravissimi, dei grandi, e quindi niente, vi lascio un po' di musica. Rimaniamo in India, sempre per parlare di Bernard Lawrence Madoff, che non c'entra niente con l'India, ma la colonna sonora mi piaceva assai e quindi ho continuato a usarla. Bernie Madoff, nato a New York il 29 aprile del 1983 e morto a Budner il 14 aprile del 2021, è stato un banchiere e un truffatore statunitense, potevano dire banchiere e basta, però hanno dovuto proprio truffatore, vabbè, era banchiere, però condannato per una delle più grandi frodi finanziarie di tutti i tempi. Nasce da una famiglia ebraica, si sposa con Ruth Madoff, e lui era assolutamente super stimato da tutta la comunità, super apprezzato, ovviamente ricevette un sacco di cariche presso le più importanti istituzioni culturali della città. Fu consigliere della Sinsim School of Business, della Yeshiva University, del New York City Center, è membro del Cultural of Institution Group. Non solo, Madoff incredibilmente è diventato presidente del Nasdaq, cioè il listino tecnologico, e riuscì a tirare principalmente lui all'interno del Nasdaq aziende del calibro della Apple, della Cicron, Sun Microsystem, Google e Cisco. E ovviamente questo inizia a evidenziare che, avendo una buona carica, avendo fiducia, cioè creando fiducia e un'ottima reputazione a tutti gli altri, in un sistema finanziario come il nostro diventi un jolly, puoi praticamente fare tutto. E quindi vi lascio con un altro po' di musics. We'll be right back. Ovviamente siamo su Radio Wombats. E così, questo pezzo finiva così, tagliava secchissimo, non me l'aspettavo, per cui si andrà con la prossima. E ovviamente Radio Wombat 1359 della M o streaming, ci potete sentire su radiowombat.net e papà, il pad, potete scriverci sul pad su pad.cisti.org/p/diretta wombat, comunque lo trovate sui contatti, o lasciare anche un ottimissimo, un bellissimo messaggio nella messaggeria. Niente, questo è, i contatti della radio li ho dati, e per oggi rimaniamo su techno, elettronica, e la parte india se n'è già andata, già fu. E va bene, io continuo intanto con la storia di Madoff, che appunto dicevamo fu presidente del Nasdaq. Cos'è il Nasdaq? Il Nasdaq è l'acronimo di National Association of Securities Dealer Automated Quotation, che sarebbe quotazione automatica dell'Associazione Nazionale degli Operatori in Titoli. È un mercato istituito a Wall Street l'8 febbraio del 71. È stata la prima borsa al mondo esclusivamente elettronica. All'inizio i computer servivano solo per diffondere le informazioni e i prezzi in via continua, e questo serviva a non far connettere continuamente i poveri broker, che se no dovevano continuamente guardare i titoli. E va bene, fino all'87 era solo così, cioè serviva solo a connettere, a far vedere i titoli agli operatori, ma in realtà le offerte venivano fatte sempre via telefonica fino all'87, mi sembra. Poi iniziò a diventare una quotazione per via telematica, quindi anche le quotazioni venivano fatte in maniera telematica, quindi come più o meno come adesso. Va bene, essenzialmente questo è, cioè, il Nasdaq è quella parte di Wall Street dove si usa i computer e le macchine per fare brokeraggio. Quindi, cioè, insomma, questo personaggio era presidente del Nasdaq. Allora, lui iniziò come broker negli anni 60. Di base, praticamente lui prima lavorava come bagnino, poi investì i suoi soldi di lavoratori di bagnino a Long Island nella sua attività di brokeraggio. Quindi iniziò a investire i suoi soldi nella sua impresa, Bernard Madoff Investment Securities, e andò abbastanza bene, continuò a crescere la sua impresa e iniziò a mettere all'interno vari familiari, fratello, il figlio, i figli, Mark, Andrew, e insomma essenzialmente la sua reputazione all'interno della comunità continuò a crescere. Venne soprannominato Jewish Bond, e quindi insomma era un personaggio pubblico importante e ben conosciuto. Però, qui io arriverei direttamente al momento in cui, diciamo, si inizia a formarsi la truffa. Lui, ovviamente, tutte le dichiarazioni innanzitutto sono state rilasciate da lui in carcere, e perché di base non è che l'hanno scoperto, lui si è costituito, quindi ciò che dice è l'unica cosa che possiamo sapere. Si è costituito come singolo, nel senso che lui dice di aver fatto tutto da solo, e quindi essenzialmente si è dichiarato colpevole da subito, e quindi il caso non è mai realmente andato avanti, quindi non sappiamo perfettamente come è andato se non attraverso il suo racconto. Quindi questo è il suo racconto. Allora, lui ha avviato la frode negli inizi degli anni 90. C'era la recessione a quel tempo della guerra del Golfo. Essenzialmente da lì lui iniziò già a guadagnare. Perché? Perché lui in realtà non aveva mai avviato operazioni finanziarie. Lui quei soldi, quindi tenendo lo schema Ponzi, non li investiva realmente. Lui li metteva in banca, li depositava su un conto, il conto della Chase Bank. E essenzialmente ogni persona che entrava, ogni investitore nuovo, se chiedeva di ritirare dei denari, gli venivano fatti avere dai conti degli altri risparmiatori. Questa roba, per assurdo, perché di solito viene scoperta abbastanza presto, diciamo, invece a questo giro è stata scoperta molto dopo, è durata un sacco di anni, è stato, diciamo, molto bravo da questo punto di vista, è durata fino all'11 dicembre del 2008, che fu arrestato, fu accusato di truffa di una cifra pari circa, perché ovviamente non sappiamo precisamente, ma circa 65 miliardi di dollari, più o meno 60 miliardi di euro, miliardi di euro. Vabbè, io intanto partirei con un pezzettino musicale, perché anche la selezione musicale oggi l'ho sparata soda, andiamo un po' avanti. Allora, cos'è che distingueva lo schema di Ponzi di Madoff da quelli classici? Prima di tutto, lui non vantava profitti di 20-30% annuo, ma rendimenti intorno al 10, quindi erano robe un pochino più credibili rispetto agli altri. E più che altro, ovviamente, nel momento in cui qualcuno usciva, anche le spese erano assolutamente più affrontabili, no? Perché ovviamente lui, diciamo, nel momento in cui decise di costituire, perché? perché le richieste di disinvestimento nell'ultimo anno, ricordiamo che era il 2008, c'era la crisi finanziaria, una delle più grandi del mondo, se non la più grande, erano arrivate a richiedere all'incirca 7 miliardi di dollari di disinvestimento. Ovviamente Madoff non aveva, o almeno non era in grado di onorare 7 miliardi di disinvestimento. E quindi si rese conto che lo schema sarebbe assolutamente crollato. Su alcune fonti, ad esempio, si dice che ovviamente sono racconti suoi, quindi ovviamente non possiamo sapere se è vero, ma si dice che lui volesse di base diciamo, liquidare tutti i dipendenti, rendere i soldi ai piccoli investitori e poi consegnarsi all'autorità. Invece scopriremo che non andò così, quindi non riuscì in questo piano. Intanto vi lascio con Chalanga Salgari, come si chiama? Salgari Records di Clara. E mi ero sbagliato, questa è Nina Simmons con sempre Salgari Records. E bene, va bene, la traccia dopo era Chalanga. La traccia dopo sarà Chalanga, sempre Salgari Records, Clara. E intanto vado un po' avanti, anche se la traccia dopo era veramente molto bella, anche questa era molto bella, ma anche quella dopo. Vai, magari vi lascio, no, l'intro è lunghissimo, magari parlo sull'intro. E va bene. Allora, ovviamente la prima domanda che uno si pone è come tutto ciò può essere successo nel 2008, perché lo schema Ponzi era una roba dei primi del Novecento, diciamo, da questo punto di vista poteva essere anche una roba un po' innovativa, un po' una svista, ci stava. Ma qui 2008, un personaggio di Wall Street, un personaggio importante, com'è potuto succedere? Rieccomi in voce. No, questo pezzo era bellissimo, incredibile. Nonché Tony Guga, Tile, quella che sta arrivando, sia da meno. Veramente molto belle. Queste compila di Blackout sono pazzesche. E va bene, dai, dobbiamo andare avanti. Nonostante la musica che mi foga tantissimo, però niente, dobbiamo per forza andare avanti. Allora, ovviamente ci sono degli enti detti audit che di base si occupano di fare revisione delle imprese di brokeraggio che si occupano di soldi. Ovviamente quelle teoricamente più soldi ti occupi, più dovresti, diciamo, avere gli occhi addosso e quindi dovresti avere un audit che controlla parecchio. In realtà poi vedremo che su varie denunce di varie persone nella storia questa cosa in realtà è praticamente quasi inversa. E va bene, comunque inizialmente la revisione della società di Madoff fu affidata a un suo amico David G. Frieglig, non saprei come cazzo si legge. Cioè aveva un piccolissimo ufficio a New York, New City, scusate, che è un sobborgo di New York, sembra una barzelletta, ma è vero. Che vabbè, aveva solo un collaboratore e una segretaria. Cioè, vi potete immaginare che per un'azienda come quella di Madoff, insomma, un revisore di due persone è un po' strano. Già questo, diciamo, offrì dei dubbi. A tutta la anche più avanti, nel senso, chi investiva su Madoff, chi faceva controlli, si accorgeva che era un po' strana sta roba. Dopo, ovviamente, facilmente dopo lo scoppio dello scandalo, si scoprì che nel 93 già l'azienda che doveva revisionare Madoff, quindi quella che parlavamo sopra, praticamente avevano dichiarato già che non era un'azienda che effettuava audit. Questo l'aveva dichiarato all'American Institute of Certified Public Accounts, che è un altro ente certificatore, perché qui si entra chi certifica il certificatore e praticamente non si finisce mai. Ma sì, essenzialmente c'era un altro ente che fu avvertito del fatto che l'azienda che doveva fare l'audit di Madoff non lo faceva. L'audit, innanzitutto, allora, di base è proprio, cioè, di base significa audit, significa ascoltare, e quindi è un vero e proprio ente che si mette all'ascolto, diciamo, in maniera molto simbolica, delle aziende che dovrebbe controllare. Di base non fa altro che controllare un'azienda o più aziende, in questo caso, quindi niente, solo un ente di controllo. Ovviamente ci fu poi un'indagine del procuratore distrettuale della contea di Rockland. Di base, insomma, Frieglich, che era il personaggio di prima, sosteneva di avere un sacco di clienti, nonostante lui avesse detto: "Ah, io non faccio audit". Comunque, Fredericks era registrato presso la Public Company Accounting Oversight Board, che fu creata dalla legge antifrode nel 2002, però come ufficio non soggetto a audit. Quindi, diciamo, lui era iscritto, ma non era tenuto a fare l'audit. Venne fuori poi che la banca di Madoff, la JP Morgan, già nel 2006 sapeva che Franklin non era iscritto a un ente certificatore e non era un soggetto che faceva audit né soggetto audit a sua volta. Quindi anche la banca che prendeva i soldi da Madoff sapeva. Ovviamente non aveva nessun interesse, finché i soldi c'erano facevano comodo, quindi perché avrebbe dovuto far qualcosa? Alcuni finanzieri poi del Fairfield Greenwich Group, che gestiva il più grande fondo che faceva confluire denaro nel fondo di Madoff, era a conoscenza già dal 2005 che l'azienda dell'audit non faceva audit verso Madoff e non revisionava un'emerita CIPA. Questo è un altro tassello, nel senso che ovviamente spesso sui piccoli investitori non sono direttamente, non investono direttamente loro, ma si appoggiano a aziende che investono su dei fondi. In questo caso, appunto, la Fairfield Greenwich Group, minchia, anche loro dovrebbero chiamarsi Pinco Pallino, sarebbe più facile, ma no. Quindi anche loro sapevano, ma essenzialmente di base i soldi non sono loro, fotte sega, e investiamo. Nel 2008, ovviamente, a fattaccio accaduto, uscì un articolo sul Time, nel quale si fu fatto un bel po' di inchieste sulle società di audit che facevano revisione sui grandi fondi. E queste società di revisione ovviamente non erano spesso composte da un solo auditor, quindi è vero che il gruppo di Madoff, l'azienda di Madoff, aveva come auditor la Freundlich Horowitz, che era quella che dicevamo all'inizio, che poi non gli faceva audit in realtà, ma le aziende che facevano investimenti sul fondo di Madoff avevano a sua volta delle aziende di audit. E quindi neanche loro, non si è accorto nulla, nessuno si è accorto di niente. Una di queste aziende era la KPMG, che è una delle più famose, la BDO, Sideman, insomma, erano essenzialmente tra le più grandi aziende di audit, comunque, diciamo anche indirettamente, controllavano il mercato, e si sarebbero dovuti accorgere che gli andamenti di Madoff non erano assolutamente possibili e fattibili. Intanto vi lascio con Moonshine Pandemic 19. bene, bene. Anche questo è un pezzaccio bellissimo. Allora, ovviamente, intanto, se diciamo sicuramente tutti questi enti audit nel mezzo dovevano revisionare, dovevano controllare, nessuno si è accorto di niente, molto ridicolo. Sicuramente il fallimento più grande è quello per la SEC. La SEC sarebbe la Security and Exchange Commission, cioè la commissione per i titoli e gli scambi equivalenti, cioè gli scambi, che in italiano sarebbe la CONSOB, ok? Che dal 92 aveva già effettuato diverse verifiche presso l'azienda di Bernard Madoff, senza però rivelare nessuna violazione, non si erano accorti di niente. Nonostante a volte, cioè nel 2008 addirittura, poco prima del crollo, fu segnalato che, nonostante che Madoff gestisse 17 miliardi di dollari per conto dei suoi clienti, aveva solo 1 miliardo investito in azioni. Quindi sta roba era già un po' strana. Ovviamente i concorrenti avevano già espresso dubbi e avevano anche fatto denuncia alla SEC, che se non sbaglio la SEC dovrebbe essere un ente privato, non un ente pubblico, quindi è un ente governativo. Uno, ad esempio, Harry Markopoulos, che essenzialmente si era accorto che gli andamenti di Madoff negli investimenti erano veramente sospetti, nel senso che di solito ci sono delle salite e delle discese, dei momenti di crisi in cui uno perde, poi dei momenti in cui uno guadagna. Invece Madoff sembrava sempre che fosse il più bravo, quello che le azzeccava tutte, ma così da anni, e era una roba impossibile. Nessuno può realmente riuscire nell'impresa. Come vedremo, lui ce la faceva per un semplice motivo. Perché lui in realtà le azioni le comprava, che poi non le comprava, cioè faceva finta di averle comprate a mercato chiuso, cioè quando lui diceva di investire i soldi dei clienti, che in realtà non investiva, ai clienti però doveva mandare delle ricevute, doveva mandare delle fatture che lui stesse facendo qualcosa. Cosa gli mandava? Gli mandava delle robe che erano già a mercato chiuso, quindi erano per forza buone, è ovvio, sai già il risultato, cioè è facile, no? E quindi lui ha continuato così, ma dal 90 al 2008, 18 anni, questa roba, e i soldi ovviamente lui li metteva in banca, diceva ai clienti che andava tutto bene, che aveva fatto gli investimenti incredibili, che stavano tutti guadagnando soldi. In realtà lui si spendeva i soldi dei clienti per farsi i cazzi suoi. E nel caso chi usciva gli doveva dare i soldi, gli dava ovviamente quelli dei clienti. Quindi uno schema Ponzi normalissimo. Ovviamente, diciamo, allora. Allora, ritorniamo a Markopoulos. Markopoulos aveva già denunciato alla SEC, sia nel 99 sia nel 2005, che i risultati appunto di Madoff, come si dicevano prima, erano tecnicamente impossibili o molto sospetti. Denunciò appunto all'autorità di controllo. Ovviamente, diciamo, poi questa roba è uscita dopo, però nel 2013 Kathleen Furey sostenne che l'agenzia, quindi la SEC, avrebbe informalmente inviato gli investigatori nelle attività di indagine a varie aziende che mettevano azioni e anche alle società quotate. Però avrebbe diciamo, avrebbe evitato di indagare su coloro come Madoff che, diciamo, davano più che altro consulenze in materia di investimenti. Quindi essenzialmente poi nel 2016 Markopoulos diciamo, dopo che era già successo tutto, spiegò come la SEC secondo lui non aveva controllato, non aveva fatto assolutamente niente. Ci volle anni per ricostruire come appunto non c'era un'azienda di audit, nonostante fosse tutto alla luce e tutto dichiarato. Ci sono voluti comunque anni, e in più lui ovviamente ha parlato solo per quanto riguardava lui, ha sempre dichiarato di aver agito da solo, e quindi è ovviamente difficilissimo in queste situazioni. Però pazzesco, ha fatto un lacchezzo veramente epico. Ovviamente a gioco fatto è facile, però Markopoulos spiegò un po' secondo lui come funziona, anche come non funziona, anzi, tutto il sistema di audit. Essenzialmente disse che di base spesso i funzionari che effettuano gli audit sono giovani, sottopagati, costretti a orari di lavoro assurdi, estenuanti, che nelle checklist che sono costretti a applicare praticamente sono veramente accuratamente progettate per girare intorno a delle società particolari che probabilmente sono un po' le più potenti o comunque di base fanno frodine. E lui ovviamente dice, si chiede qual è un solo caso di frode scoperta da una delle grandi società, delle grandi quattro, delle società di audit di revisione. Ovviamente dice non ci sono, non ci sono mai state, e se così, appunto, a cosa serve l'audit? Questa bella domanda. La risposta, a mio avviso, è semplice: serve a creare quella idea che tutto va bene, che ci possiamo fidare, ma poi realmente il sistema dà fiducia a delle determinate persone perché sembrano affidabili, perché vengono da famiglie facoltose e perché hanno dei titoli precedenti nel quale ci si crede. Non si può pensare che una persona del genere stia facendo realmente una truffa. Ovviamente non avviene nella realtà, questo purtroppo non avviene, e va bene. Quindi diciamo che a naso abbiamo più o meno capito come ha fatto, non totalmente, ma questo, diciamo che ancora nessuno c'è realmente arrivato. E non ci arriveranno mai, perché è morto aprile in carcere, e quindi lui è andato, tutti i segreti sono andati via con lui. Ci sono, tra l'altro, se vi interessa molto, c'è un film dell'HBO che si chiama The Wizard of Lies, ma non mi ricordo di preciso. Comunque, che con mi sembra De Niro che fa Madoff. Non so quanto di quel film è di fantasia. Questi film che sono sempre un po' un incrocio tra un documentario e un romanzato, non si capisce mai quanto è documentario e quanto è romanzato. Alcune cose sono sicuramente, diciamo, di dominio pubblico e quindi sono vere, altre ovviamente penso siano più o meno inventate, ricostruite, però diciamo si sa che realmente quello che lui ha dichiarato, che appunto voleva risarcire i piccoli investitori e tutti i suoi dipendenti, e che dopo si sarebbe voluto consegnare all'autorità per dire che era tutto un enorme schema di Ponzi. E questo non successe perché di base, quando iniziò a preparare vari soldi da dare in liquidazione alle persone a cui doveva, a cui aveva deciso di darli, e i figli, che comunque bene o male un po' erano a conoscenza dei movimenti, anche se hanno sempre dichiarato, e lui anche ha sempre dichiarato, che loro non erano a conoscenza di tutto lo schema di Ponzi, diciamo è difficile, ma può essere anche vero. Comunque i figli, venuti a sapere che stava facendo questo movimento di soldi, hanno chiesto spiegazioni. Lui ha dovuto in un certo senso dirgli quello che stava per avvenire e tutto quello che aveva fatto finora, che quindi dagli anni 90 lui essenzialmente stava truffando. I figli erano increduli, però essenzialmente la prima cosa che hanno fatto è si sono consultati con un avvocato che gli ha detto che nel momento in cui loro adesso sapevano dello schema di Ponzi, perché il padre li aveva informati, se non dicevano niente alla polizia e se gli lasciavano fare il suo piano per rimettere, diciamo, a posto le cose dal suo punto di vista, sarebbero stati complici e quindi sarebbero stati condannati anche loro. Loro ovviamente, presi dalla paura, l'avvocato tra l'altro era un altro di quelli che aveva messo i soldi nel fondo, quindi ha perso tutto, questo è molto divertente, però gli ha consigliato, insomma, di andare alla polizia. Loro sono andati alla polizia, l'hanno denunciato, per cui è stato preso dagli agenti federali e incarcerato prima di riuscire a fare tutto quello che aveva pensato di fare. Lui si dichiarò sempre subito colpevole di tutto. Vi lascio con un altro po' di dubs. We between us, we have to raise up. Yeah. ovviamente, ovviamente, chi erano, la prima domanda che uno si pone, i clienti, i più grandi clienti di Madoff? Erano solo piccoli investitori? No, anzi, per lo più erano grandi istituti finanziari, investitori istituzionali enormi. In Italia, diciamo, la più grande che aveva investito sul fondo Madoff era la Unicredit, che investì per 75 milioni di euro, Banco Popolare 8 milioni di euro, e in tutto il mondo erano, ad esempio, la Royal Bank of Scotland 445 milioni di euro, la BBVA, che è spagnola, 300 milioni di euro, la Natixis, cazzo è Natixis, 450 milioni di euro. E però quelli che ci hanno perso di più sono l'HSBC, che è britannica, che più o meno ci hanno perso un miliardino di dollari. Nel 2011, però, tramite, diciamo, la SEC disse che l'HSBC era riuscita a riprendere in possesso 600 milioni di dollari tramite indagini private. Anche qui si capisce una cosa fondamentale, che secondo me è anche ganza, perché è un po' detta anche nel film, che è che non ci sarebbe mai stato e non ci sarà mai un processo reale a carico di Madoff, perché nessuna di questi enormi gruppi finanziari farà mai finirà in un tribunale. Non esiste, anche solo per il punto di credibilità, di immagine. Preferiscono perdere soldi. Non è pensabile che dei grandi gruppi finanziari vadano a processo, ma anche non dico come imputati, ma come insomma fare dichiarazioni, come è abbastanza folle. Ovviamente Madoff più o meno, diciamo, gli fu sequestrato un patrimonio di 7.5 miliardi di dollari, ce l'ho fatta, che si era ovviamente aveva pescato nel corso del tempo, da tutto, da case, società, auto, qualsiasi cosa. Ovviamente tanti privati anche nel mondo dello spettacolo avevano investito cifre anche discrete. La Wonder Kinder Foundation di Steven Spielberg avrebbe perso una buona parte del capitale, al magnate dell'editoria Zuckerman, al premio Nobel Hail Wiesel, all'icona cinematografica Zsa Gabor, che anche lui avrebbe perso tra i 7 e i 10 milioni di dollari, all'attore Kevin Bacon, alla sua moglie Kira Sedgwick e a John Malkovich, anche loro cadute nella rete di Madoff. Madoff, ovviamente, in questo mondo capitalista dove i soldi valgono molto più delle persone, fu condannato a 150 anni di carcere. Lui aveva già, mi sembrano, settantina d'anni, quindi, cioè, non gli fu dato un ergastolo, ma più di un ergastolo, direi, sono praticamente due ergastoli, anche senza praticamente. E vabbè, questo fa un po' capire anche quanto contano, nel senso che comunque è andato a pestare i piedi a grandi aziende. Ovviamente dal punto di vista dell'opinione pubblica fu fatto un sacco di inchieste. La più famosa era di questo ex soldato che aveva investito tutto, che si è suicidato perché aveva perso tutti i suoi soldi. Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'opinione pubblica fu fatta molta leva, dal punto di vista che lui aveva rubato tutti questi soldi ai piccoli investitori, che era una merda. Ora, chiaramente, non che non sia stata una merda, però la gran parte dei soldi li ha presi ai grandi investitori e appunto da quello che lui dice avrebbe voluto riparare verso i piccoli investitori andando appunto a finire i soldi dei grandi investitori. E questo ovviamente è una sua dichiarazione, non lo scagiona e niente. Nel 2009 sul New York Post viene rivelato che Madoff era malato di cancro, che gli sarebbe rimasto pochi mesi di vita, ovviamente poi disse di no, cioè nel senso, ma chi ve l'ha detto? E anche perché è arrivato fino al 2021, fino al, mi sembra, al 14 aprile. Comunque nel 2009 effettivamente viene ricoverato in ospedale, probabilmente per questo viene fatto partire una super inchiesta, in realtà non c'entrava niente. Invece nel 2010 il suo figlio, non mi ricordo se è il primogenito, mi sembra di sì, si suicida a Manhattan. Anche qui diciamo si capisce molto che il figlio si è suicidato perché era continuamente legato allo scandalo del padre, veniva ritenuto colpevole anche lui, continuava a essere perseguitato da questa cosa, e anche se appunto continuiamo, non sapremo mai, anche perché l'altro figlio, Andrew, fu affetto da linfoma mantellare e morì nel 2014, il 3 settembre del 2014, quindi è una storia pazzesca, di cui non sapremo molto, se non che lo schema di Ponzi funziona, e funziona tuttora. Tuttora mi capita, per l'appunto l'altro giorno mi è capitata una pubblicità di un'azienda che non mi ricordo cosa. Ah, non vendeva niente, nel senso che dal sito non si capiva cosa stesse facendo realmente, ma che voleva che tu ti iscrivessi, voleva che insomma vendessi per conto suo, era palesemente uno schema piramidale, che è sempre lo schema Ponzi, un altro modo per chiamarlo è catena di Sant'Antonio. Esistono veramente tanti tanti tanti tanti modi di chiamare lo stesso schema Ponzi, e niente, vi lascio con un altro po' di dub. What this planet needs now is belief, hope in each other, faith in each other. That's what it needs now. Tell me, Paris, do you believe? E va bene, ora però sono un po' stufato della dub. Bella, bellissima, però quasi quasi tornerei sull'indianeggiante. Guarda, ma sì, torniamo sull'indianeggiante. E va bene, allora, qual erano. Io diciamo ho fatto delle riflessioni su questi eventi. Il primo che mi è venuto in mente è che è veramente molto ben visibile spesso come il sistema di fiducia sia la cosa più importante di apparenza, su cui di base si basa veramente tutto il nostro sistema finanziario. Basta pensare a tutte le bolle speculative, a come effettivamente funziona il sistema di compravendita, che spesso si, diciamo, si vende anche solo per diciamo per far pensare che ci siano un aumento delle vendite e così via. Cioè, i sistemi finanziari sono complessi, però di base sono veramente molto fuffosi. Sono in mano a poche persone e, come abbiamo visto, non sono, non c'è un reale sistema di garanzia. Potrebbe finire tutto domani, i vostri soldi potrebbero scomparire totalmente. Se la Unicredit avesse investito di più, ovviamente questo non lo fa perché normalmente non investono totalmente in un unico titolo, ma avesse investito di più, avrebbe potuto anche avere delle perdite grosse, che magari ora è un'ipotesi assurda, non succederà mai per l'Unicredit, non in questo ambito, diciamo, non così. Però se fallisce, i soldi, ciao. E uguale, diciamo, anche sui sistemi di investimento che investivano per altri. Quindi chi investiva nei conti di Madoff tramite delle agenzie di investimento, ovviamente non si sa quanto siano trasparenti queste cose. Spesso non sono così trasparenti, come poi è successo nello stesso, diciamo, poco prima di tutto ciò, con l'enorme bolla speculativa della JP Morgan, eccetera, negli Stati Uniti, che di base anche lì era un modo malsano e schifoso di infilare titoli marci dentro titoli, insieme a titoli non marci, perché mediamente in questa maniera veniva che i titoli non erano molto marci. Ovviamente non funziona, non può funzionare questa roba. Se la fa un'azienda molto grande, una banca o chi per essa, tendenzialmente non viene fermata da nessuno, riesce ad andare avanti finché la bolla speculativa è talmente enorme che si rompe tutto e succede le crisi finanziarie. Questa è una, secondo me, una grande, diciamo, una verità, nel senso che di base quello che sarebbe importante è che ognuno di noi riuscisse e guardasse un po' meglio come funzionano questi sistemi di investimento. Non perché sia giusto investire, perché ad esempio secondo me è una, sono proprio una roba speculativa veramente brutta, però capire come funzionano è importante, proprio per starci alla larga in un certo senso, o anche volendo sfruttarli. Cioè, la bolla di Madoff, ad esempio, se uno era un, diciamo, piccolo investitore, aveva investito e usciva nel momento giusto, cioè prima che tutta questa bolla scompiasse, di base ci aveva guadagnato. Cioè, lui gli assicurava un 10% annuo, se gli teneva i soldi dentro per 15 anni ci aveva fatto un sacco di soldi, usciva poco prima che tutto ciò andasse a rotoli e top. Quindi non dico che sia bello, però questi meccanismi secondo me è abbastanza importanti capirli, e poi sì, sono molto complicati, ma sono anche molto fuffosi. Una delle robe che lui andava dicendo era che faceva, mi sembra, un investimento Spike Strike, non mi ricordo, una roba senza senso. Cioè, andava a giro dicendo: ma come fai a fare tutti questi soldi? Faccio Spike Track Inversion. E tutti, sì, ah, cazzo. Cioè, ovvio, perché davanti c'è una persona super autorevole, super rispettata da tutti, e se lui ti dice sblindantani, te dici, ah, cazzo, è vero, non ci avevo pensato, scusa, sblindantani. E sta roba sembra assurdo, ma funziona, e funziona tuttora. funziona da amici miei, non funzionava anche prima. E comunque, dai, vi lascio con Doom Techno 5.2 di Nig Nig Nig. Per magari così, perché non è che effettivamente si capisse molto, ma per essere, diciamo, leggermente più chiaro, ma veramente molto velocemente, perché ho soltanto 10 minuti, e spiego al volo un po' cos'è successo nella bolla finanziaria del 2008. Di base, diciamo, ci sono alcuni titoli considerati rischiosi, ok, su cui investire è un rischio, rendono tanto, ma è molto rischioso. Ci sono alcuni titoli che invece rendono poco, ma non sono affatto rischiosi. Uno su cui uno di questi è ovviamente i prestiti per le case. Ora non mi viene la parola. Comunque, e quindi cosa è successo? L'idea era di riuscire a vendere dei pacchetti con mischiando dei titoli buoni a dei titoli rischiosi, creando quindi un titolo totale che era una media dei due. Il problema è che non c'è, cioè, se tu vuoi fare questa roba e riesci ad esempio i titoli marci a diluirli molto in titoli che ad esempio sono meno rischiosi, abbassi il rischio medio. E per fare questo cosa hanno fatto? Hanno iniziato a dare i mutui, hanno iniziato a dare i mutui a dritto a tutti. In questa maniera, essendo i mutui un titolo non rischioso, facendo un sacco di mutui, potevano in questa maniera vendere anche un sacco di titoli marci, rischiosi. Il problema è che ovviamente dandoti i mutui a tutti, anche a persone che non erano effettivamente in grado di estinguerlo, si è creato una bolla enorme in cui i titoli che dovevano essere buoni e quindi dovevano essere una colonna portante di quei titoli invece marci, erano più marci di quegli altri. Ovviamente questa roba innanzitutto ha portato con sé un sacco di conseguenze, ad esempio sul mercato delle case, perché le case non costavano più un cazzo, perché a un certo punto ovviamente cosa è successo? Che le banche, non riavendo indietro i soldi, hanno pignorato le case, ma centinaia di migliaia di case che non avevano realmente modo di vendere, non c'era così possibilità di essere comprate da così tanti acquirenti, e quindi i prezzi erano stracciati, quindi non avevano modo di recuperare quei soldi, e quindi essenzialmente hanno creato un buco enorme. che ovviamente hanno pagato di base i cittadini. E alle 7:19 e 15 secondi di giovedì 9 dicembre vi lascio e prima vi ricordo i contatti della radio. Posta wombat@insiberia.net per le mail. Se invece andate su radiowombat.net trovate i contatti. Ai contatti c'è il grande paddone, c'è la messaggeria, è ancora più bella, sarebbe bellissimo. E niente, questi sono per ora i contatti. Poi magari un giorno avremo un telefono della radio, chissà. Però intanto accontentiamoci. E niente, vi lascio con gli ultimi 10 minuti di dub. E niente, buona serata a tutti. Yeah. Do you see in Paris? Open up that heart. Open up this eye. You shine. We have the power to rise above. We'll be right back.